della sua applicazione della legge Vasaglia in genere e di altri temi, sia dei docenti universitari che anche delle persone che praticamente si confrontano con questo problema anche quotidianamente. Noi faremo un breve intervento sul perché presentare questo volume all'università e perché parlare della legge Vasaglia e del problema della psichiatria, del problema dei manicomi e della logica che c'è dietro all'università. Questo intervento potrà sembrare astratto ad alcuni, speriamo che alla fine della serata non risulti più tale. Sostanzialmente noi siamo studenti e studentesse di una generazione assolutamente precaria che sin dal nostro percorso universitario, ma anche chi non fa l'università lo prova sulla sua pelle quotidianamente, siamo vittima di esclusione, veniamo ricattati, precarizzati e gerarchizzati, veniamo normati da delle norme che non sono scelte né gestite da noi e veniamo immessi in delle situazioni che ci vedono come quelli che sono al di fuori e non contano niente. Appunto in questi processi in cui sono immessi. Dunque siamo vittime di una gerarchizzazione e di un'esclusione. E in questo contesto, mutatis mutandis, assolutamente con caratteristiche diverse, siamo vittime di questa tendenza all'esclusione che dopo dà vita anche alle mentalità che sono alla base dei centri di identificazione e di espulsione, delle politiche xenofobe e fobiche, tutto ciò che viene generato dal modo di pensare, diciamo, dal sistema in genere, viene considerato come una scoria e viene allontanato senza troppi problemi. In questo contesto, parlare della deistituzionalizzazione, della fine dei manicomi, significa parlare del rapporto che intercorre tra le materie come possono essere la psichiatria, ma come possono essere molte altre, e la democrazia. Significa studiare come e vedere nei processi concreti come da dei rapporti gerarchici che vedono una persona che norma e l'altra che obbedisce, vedere come quello che obbedisce man mano riesce a riappropriarsi del potere che c'è in questo rapporto e a gestire, non, forse non paritariamente, ma diciamo in maniera più equilibrata questo rapporto. E diciamo questo seminario che abbiamo tenuto fortemente a fare vuole essere proprio questo, vuole essere una prassi in cui noi studenti e studentesse ci riappropriamo dell'università, del nostro tempo e lo utilizziamo per i fini che preferiamo, autodeterminandoci anche. Questa era la nostra intenzione, adesso lascio la parola ai relatori che spiegheranno in particolare dal punto di vista scientifico e anche storico quello che ha significato la legge Vasaglia e la lotta all'istituzione manicomiale. Intanto io vi dico subito che non parlerò dell'aspetto scientifico, visto che ci sono dei relatori molto più esperti di me. Io vi posso parlare di come è nato questo libro, da un'inchiesta di Micropolis, iniziata nell'estate dell'anno scorso, per celebrare il 30° anniversario di questa legge, e più che una celebrazione doveva essere un tentativo di comprendere i motivi che portavano alla legge e tutto quello che c'era dietro. Hanno partecipato diversi esperti e non solo psichiatri, ma anche amministratori, politici, che all'epoca, dalla metà degli anni 60 fino alla promulgazione della legge, hanno portato alla realizzazione concreta di questa battaglia. E nel libro c'è un disegno grafico di Antonio Todini, che è lo stesso grafico che ha fatto il manifesto di Umbria Jazz, che sintetizza meglio di tante parole il significato della legge. C'era la negazione dei diritti dei pazienti chiusi in manicomio come fosse una discarica umana. Lì è iniziato questo percorso di abbattimento delle mura dei manicomi e ha portato alla legge Basaglia, detta la Basaglia, ma in verità sono in tanti che hanno partecipato. E per esempio a Perugia Manuali con tutta Basaglia, prima a Parma, Gorizia e a Trieste, ma ad Arezzo c'è stato Pirella con la sua equipe. Insieme a loro hanno fatto questa battaglia il movimento degli studenti, ma anche i sindacati e anche tutte le forze progressiste democratiche dell'epoca. Il titolo, io volevo spiegare anche un attimo il titolo, I Basagliati è una polemica nei confronti di Paolo Guzzanti, ma di tutti quelli del Popolo della Libertà, che usano questa parola con disprezzo e l'hanno usata pesantemente additando alla legge Basaglia tutti i problemi, le malefatte di questo mondo. E beh, loro l'hanno usato con disprezzo, noi invece l'abbiamo usato con solidarietà e partecipazione. È inevitabile che dire una cosa su quello che è successo ieri l'altro, perché è stato lo spunto per riaprire una polemica. Allora, attualmente in Parlamento ci sono 7 proposte di legge per la modifica della legge 180, detta legge Basaglia, tutte provenienti dal PDL o dalla Lega. Sono tutte tentativi di stravolgimento della legge, proprio per quello che riguarda specialmente il trattamento sanitario obbligatorio. Ce n'è una della Lega che propone addirittura un trattamento sanitario obbligatorio su proposta di un solo medico, per decisione di un solo medico, per 90 giorni, che sembra più un arresto che non un trattamento sanitario. Allora, 2 giorni fa è successo che un paziente seguito dalle strutture di Cesano Bosconi ha tirato una statuetta di bachelite al presidente Berlusconi e si è scatenato subito una polemica, proprio le palle al balzo, e subito ieri è uscito un articolo del presidente De Marchi, presidente della Società di Psichiatria Europea Umanistica, dove dicendo ecco gli effetti della legge Basaglia, che è diciamo un esempio proprio paradigmatico di come viene intesa, vengono intesi i diritti dei pazienti previsti dalla nostra Costituzione. E questo si inquadra proprio nel tentativo sistematico di attacco quotidiano che c'è alla nostra Costituzione. Quei percorsi di libertà, percorsi da tante forze, non è che adesso va di moda dire tutti i comunisti, li vedono solo loro, ma insomma tutto quello che avviene, che non è in linea, viene fatto dai comunisti. All'epoca sono tanti che parteciparono, tante le forze che hanno partecipato alla realizzazione di questa legge e per la cronaca in Parlamento il firmatario fu un deputato della Democrazia Cristiana, l'onorevole Orsini, che con abbastanza ironia commenta in maniera un po' infastidita queste etichette che vengono appiccicate. Al libro hanno partecipato tanti protagonisti di questa dell'epoca, ma c'è anche un aspetto, oltre che ripercorrere certi battaglie, certi percorsi, quelli che vengono chiamati nel sottotitolo percorsi di libertà, c'è anche un guardare avanti. Cosa si può fare oggi? Per esempio nell'articolo, nel pezzo che ha scritto un gruppo legato al Dipartimento di Salute Mentale di Roma, dove per sottolineare la lotta che bisogna fare ai pregiudizi e ai luoghi comuni che accompagnano da sempre ai matti, e quando sono barzellette va bene, parlano delle attività che possono essere fatte nella scuola e raccontano l'esperienza di un gruppo di studenti di una scuola, l'Istituto Magistrale di Udine, che ha vissuto per un certo periodo insieme ai matti. Raccontano l'esperienza come se fossero andati in gita, cioè non è che sono rimasti stravolti o è successo qualcosa di particolarmente grave. Allora, oggi questa legge, il 13 maggio del 1888, il Brasile promulgò la legge definita aurea, perché scritta in una pergamena dorata, che decretava la fine della schiavitù in Brasile e liberava gli schiavi che c'erano. La legge 180, che è uscita fuori insieme ad altri in un periodo particolarmente difficile, anche se è particolare fare dei paragoni, però insieme alla legge sulla riforma sanitaria del 883, è frutto di un decennio di partecipazione politica e sociale, cosa che forse manca adesso, e si può definire anche la 180 legge aurea perché è una legge che difende i diritti non solo dei pazienti disabili psichiatrici, ma anche di tutti noi. Diritti che, come ha detto chi ci ha introdotto, vengono continuamente messi in discussione. Ringrazio Paolo che ci ha dato una lettura generale del libro e dei motivi per cui hanno spinto a pubblicarlo. E lascerei la parola al professor Pizza che ci parlerà degli aspetti politici della riforma. Grazie, sì, innanzitutto vorrei dire grazie ai ragazzi e agli studenti che hanno organizzato questo incontro e grazie anche a Paolo Lupattelli che ha messo insieme questi interventi in un libro che francamente ho letto con, come dire, come un'oasi, diciamo, come quando uno che attraversa un deserto si trova in un'oasi, nel senso che è da un po' di tempo, insomma, che per quanto riguarda almeno l'esperienza quotidiana della cittadinanza, vivo, ma credo insieme a tanti altri, una profonda sofferenza per lo stato di gravissima crisi reale che si avverte al di là della percezione scientifica o politica, proprio nella vita quotidiana del nostro paese, che diciamo, ci lascia in qualche misura sicuramente tutti, come dire, frustrati. Ecco. La giornata di oggi rappresenta invece un tentativo, mi pare, questo seminario, di oggettivare la frustrazione e andare oltre per tentare, diciamo, di individuare delle strade per recuperare la nostra capacità di agire, perché di fatto siamo sottoposti, di qui il senso di frustrazione, a un tentativo, peraltro, che riesce, di quotidiana espropriazione della nostra capacità di agire. La scelta di questo tema, a mio avviso, ha anche un carattere strategico, al di là del tempismo che si rende urgente rispetto a una lotta politica, a una forma di resistenza politica, rispetto a questo attacco ai diritti che si sta verificando negli ultimi 15 anni, ma che ha, diciamo, una sua radice, naturalmente, il suo inizio negli ultimi 30, 31, 32 anni. Casualmente, forse, ma non so, questa casualità andrebbe indagata, l'anno nel quale collocare, paradossalmente, diciamo, l'inizio di questa crisi profonda, di questa, come dire, tentativo di espropriarci dei diritti conquistati nei decenni precedenti e al tempo stesso presentare questa espropriazione come una forma di riformismo. Nasce nel 78, lo stesso anno dell'approvazione della legge, perché è lo stesso anno, mi pare, se non ricordo male, della vittoria di Reagan negli Stati Uniti e e della vittoria di Thatcher in Inghilterra e di una sostanziale inizio di uno sviluppo di quella fase che chiamiamo, abbiamo chiamato neoliberismo, che pure quando va nella sua crisi evidente, come quella attuale, di fatto trova le strade, come dire, sempre per affermarsi nella sua egemonia. Il 78 è un anno quindi contraddittorio, perché da un lato si raccolgono gli esiti di stagioni di lotte che radicavano la loro forte spinta propulsiva nella grande vittoria della antifascista e antinazista, che traevano spunto da quella grandissima stagione di diritto ritrovato e riconquistato che era stato il 1948. Ecco, i 30 anni successivi al 48 sono straordinari, perché anche se da un lato pongono il problema di una contraddittoria vita quotidiana della democrazia italiana, no? Perché è contraddittoria nel senso che abbiamo una Costituzione straordinaria, ma abbiamo nella prassi quotidiana della politica, perché attenzione, quando parliamo dello Stato e del governo, noi parliamo di vita quotidiana, al di là della filosofia politica che ne traccia, diciamo così, le mappe teoriche, noi parliamo di una vita quotidiana, nel senso che l'azione dello Stato è vissuta quotidianamente dentro l'esperienza. Allora, studi che mettano in rapporto l'esperienza, la dinamica più intima dell'esperienza con le forme dell'azione statale e governativa sono rarissimi. Sono rari perché di fatto, ecco, si percepisce come non scientifico, diciamo, l'esplorazione dell'esperienza, perché sarebbe riluttante alla formalizzazione, no? Ma di fatto invece è proprio là che noi dobbiamo andare a lavorare per capire cos'è realmente lo Stato. E allora è evidente che negli anni 50 c'è una serie di governi sostanzialmente antipopolari che giungono a sparare letteralmente sui contadini che in Calabria o in Puglia occupano le terre, in contrasto con la stessa Carta Costituzionale, in contrasto con le stesse leggi dello Stato. Entriamo poi in una fase, diciamo, di lotte studentesche che poi porterà alla fase del terrorismo degli anni 70, e adesso, diciamo, io sto veramente, diciamo, in maniera indecorosa, diciamo, sorvolando a volo d'uccello, ma perché mi interessa dire che anche queste grandi fasi di lotte hanno avuto non da un lato l'idea di una stabilità razionale dello Stato e di una invece società civile attraversata da fermenti più o meno eversivi o sovversivi o insurrezionali, eccetera, ma c'è stata una contraddizione reale anche nell'azione dello Stato. Voglio dire, se oggi questo che definivo carattere strategico della scelta di parlare di questi argomenti noi lo prendiamo sul serio, allora si tratta di mettere le basi per andare a capire che cos'è e che cos'è stato, scusate il bisticcio di parole, ma non è tanto un bisticcio quanto un'allusione, che cos'è stato lo Stato italiano almeno a partire dal 48 ad oggi. No, tutto sommato non voglio dire dal 1861, perché anche se prendiamo quella data, in fondo lo Stato è giovane, ma dal 48 ad oggi come democrazia, in fondo abbiamo una democrazia di 60 anni, quindi 61 anni, quindi piuttosto giovane, che non è mai stata, secondo me, sottoposta a un'analisi attenta, naturalmente io direi antropologica, perché faccio l'antropologo, ma non lo voglio dire per non avvocare alla nostra disciplina questo ruolo assoluto, però non è stata sottoposta a uno studio del rapporto che c'è tra l'esperienza quotidiana e lo Stato e l'istituzione, perché l'istituzione si autoessenzializza, no? Si formalizza, non produce un linguaggio che aderisca alla dimensione più intima dell'esperienza del singolo e delle persone, però dietro questa formalizzazione spesso c'è una maschera, questa formalizzazione è una maschera che nasconde in realtà una straordinaria capacità dello Stato di permearci capillarmente. Voglio dire, siamo giunti in una fase nel 2008-2009 in cui gli esponenti del PDL parlano apertamente di biopolitica, no? E c'è chi dice no, la bioetica non esiste, cioè noi facciamo biopolitica. Ecco, allora questa, diciamo, queste parole introduttive a carattere storico-politico, secondo me, cioè, le ho pronunciate perché servono a spiegare, a mio avviso, quella che è stata la mia percezione in un carattere strategico della questione basariana. Cioè, credo che il lavoro che si fa di esplorazione anche di una memoria di quelle lotte antistituzionali sia di grandissimo interesse, perché tocca un punto nevralgico per comprendere cosa è lo Stato nella sua concretezza quotidiana, nell'esperienza della concretezza quotidiana. Cosa è cioè l'istituzione quando essa è incorporata quotidianamente? È da qui che io ho cominciato a leggere Basaglia, e questo si è intrecciato con alcuni aspetti emotivi, per cui c'è stato in me, diciamo, quando ho letto i libri di Basaglia per la prima volta, una sorta di cortocircuito anche emotivo, perché mio padre è stato infermiere presso l'ospedale psichiatrico di Napoli, Leonardo Bianchi, ed è entrato un anno prima che Basaglia entrasse a Gorizia, nel 1960. Mio padre era un militante comunista molto attivo e un sindacalista di base, così, che lavorava in quel contesto, e la cosa che colpiva quando ho cominciato a ragionare, sentendo i suoi racconti, in casa mia si è sempre parlato molto di politica, era il fatto che i suoi racconti dell'istituzione manicomiale somigliavano molto a quei racconti della Fiat degli anni 50, dove c'erano i cosiddetti reparti confino, perché i militanti, diciamo, che lottavano contro quella violenza quotidiana che era visibile e che aveva un carattere anche, diciamo così, di, come dire, di capacità dell'istituzione di creare consenso, cioè non dobbiamo immaginare che le violenze interne ai manicomi fossero solo il frutto di una sorta di direttiva dei direttori o di una sorta di lunga durata della grande istituzione violenta che era stata il manicomio anche nell'Ottocento, cioè. Ma era la macchina che attivava anche autonome forme di violenza, anche di parte del personale che stava dentro. E chi aveva invece maturato una consapevolezza democratica, di una sorta di coscienza civile democratica, si trovava a fare dentro quei contesti, a mettere in atto dentro quei contesti delle azioni che si configuravano come vere e proprie continuazioni della resistenza antifascista. Io mi sono sempre chiesto perché la gran parte, almeno nell'area campana, dei dirigenti dei manicomi erano tutti esponenti del movimento sociale italiano, medici che venivano da quella cultura. E cioè si trattava, come dire, di creare delle enclave di nazifascismo interne al campo democratico italiano, che venivano a costituire degli stati di eccezione dentro quel grande stato di eccezione che era poi, che è ancora e che è sempre stata la nazione, lo Stato nazionale italiano, un continuo stato di eccezione. Ma qui non voglio citare categorie filosofiche, dico stato di eccezione perché è evidente agli occhi di tutti quanto noi viviamo tuttora, anche l'episodio dell'altro ieri rientra in tutto questo, io non voglio dilungarmi, ma sulla rete c'è un'analisi dei fatti, anche delle immagini che apre scenari inquietanti. Però voglio dire che la questione dell'eccezione non la cito tanto per evocare Brecht, Benjamin o Gramsci, eccetera, la citerei per dire che è sotto gli occhi di tutti quanto noi siamo lontani da quella presunta normalità che viene evocata ormai come utopia, tanto che il grado più basso, zero, della democrazia viene percepito come una meta irraggiungibile, no? E allora da questo punto di vista io però vorrei fare una riflessione che apra anche a qualche spunto di ottimismo, e cioè la questione dell'eccezione non va intesa solo dal versante, come dire, di chi ha gli strumenti per garantirsi un'egemonia quotidiana, soprattutto manipolando i mezzi della informazione. La questione dell'eccezione si pone anche dal versante di chi vive dentro la società civile e dà la possibilità, anche grazie allo stato di eccezione, di attivare delle forme, se non di resistenza, anche di tentativo di soluzione creativa anche dei conflitti che si verificano di volta in volta. Cioè, non è che contro lo stato di eccezione noi dobbiamo proporre una democrazia formale, diciamo, dove sia garantita l'elezione, dove sia garantita, diciamo, la delega democratica come strumento formale. Io credo che, diciamo, di fronte allo stato di eccezione si debba rafforzare quel carattere insurrezionale della democrazia, inteso come una partecipazione popolare molto generale, molto collettiva, molto condivisa alle vicende che appunto rischiano di invece gettarci in una quotidiana frustrazione individualizzata. Ecco, i legami di questo discorso politico che faccio e che mi sta a cuore anche dal versante antropologico, in quanto qui trovo i germi di un'antropologia dello Stato nazionale italiano, intesa appunto come tentativo di studiare lo Stato non dal versante politico, filosofico, storico, ma dal versante del rapporto che esso ha con la dimensione dell'esperienza, la psicologia potremmo dire dello Stato, se non vogliamo dire l'antropologia, e dico l'antropologia perché mi interessa più il corpo piuttosto che la psiche. Ecco, questa questione, a mio avviso, è al cuore dell'opera di Basaglia ed è almeno il punto di partenza e anche, diciamo, di arrivo a partire dal quale e aggiungere al quale io ho letto le sue opere. In quanto, diciamo, il lavoro di Basaglia mi pare contrassegnato dal superamento di una contraddizione che i biografi in qualche misura hanno generato, e cioè il Basaglia fenomenologo della prima fase che si opporrebbe o si supererebbe nel Basaglia impegnato politicamente nella seconda fase. Chi legga tutti i lavori degli anni 50 di Basaglia, come io ho provato a fare grazie anche all'antologia fatta nel 2005 da Gianni Chedda, che raccoglie tutti i saggi sulla corporeità e quindi trova anche, riprende, recupera anche i saggi sull'ipocondria degli anni 50, quando Basaglia lavorava lontano ancora dall'entrare come direttore di manicomio, lavorava nella clinica psichiatrica di Padova, l'università quindi. Ecco, in quei saggi lui lavorava sulla teoria della psichiatria utilizzando assolutamente in maniera anche anticipatrice rispetto a certi lavori dell'antropologia culturale quella che era stata la fenomenologia, e cioè la prima critica che dall'interno di una tradizione filosofica occidentale aveva aperto a una grandissima importanza del corpo, della corporeità, e quindi a una dimensione più concreta di riflessione filosofica rispetto a un'idea di mente separata dal corpo. Questo tentativo di unificare la mente e il corpo aveva già un profondo senso politico, perché per esempio portò Basaglia a dire attenzione, in una fase in cui l'ipocondria era niente più che una vera e propria categoria di malattia psichiatrica, attenzione, si tratta di esplorare le dimensioni quotidiane dell'ipocondria, si tratta di esplorare le dimensioni quotidiane del corpo vissuto, non di un corpo rappresentato e quindi poi normalizzato, dentro il quale il corpo vissuto va a cozzare. Guardate che l'esperienza, diciamo, di malessere mentale o di disadattamento, come è testimoniato da dozzine e dozzine di studi fatti soprattutto da antropologi in tutte le università di medicina, la vivono anche gli studenti di medicina che al secondo anno, quando studiano patologia generale, vivono l'esperienza di un'ossessione sintomatologica, credono di avere i sintomi che stanno studiando, perché stanno incorporando un corpo normalizzato e oggettivato che cozza con un corpo vissuto, che fin quando non sa che c'è una norma si adatta, e l'adattamento attivo anche di fronte alle malattie gravi è una strategia positiva che supera la visione catastrofista della malattia. Allora credo che diciamo, questa questione del rapporto fra corpo e istituzione fondamentale in Basaglia è risolta in Basaglia in una chiave teorico-critica nella fase dello studio, che poi era anche una fase pratica perché lui aveva a che fare con dei malati, sebbene non nel contesto psichiatrico dell'ospedale, ma soprattutto lui grazie alla fenomenologia riesce a decostruire quella dimensione di controllo che sta già nei dispositivi teorici della psichiatria, per cui rifonda una teoria, libera la teoria psichiatrica proiettandola dentro la dimensione della vita quotidiana e a partire da un rispetto per le posture del corpo quotidiano. Se un corpo è silente, dice Basaglia, quel silenzio ci induce a criticare l'empatia come tentativo di invaderlo e a rispettarlo, a rispettare lo spazio che ci separa da questo corpo. E il rispetto del silenzio dell'altro ha come primo effetto eliminare l'idea che il silenzio sia un sintomo e affermare l'idea che il silenzio sia una forma di vita. Allora dentro questo rispetto del silenzio, in quel meraviglioso saggio che è Corpo, Sguardo e Silenzio, vedo una anticipazione straordinaria dei lavori sul corpo che sono stati fatti in antropologia solo poi a partire, in questa chiave almeno, erano stati iniziati negli anni 30, ma nella chiave politica basagliana forse neanche De Martino aveva raggiunto questo aspetto, no? Ma qui il dibattito, diciamo, diventa troppo antropologico. Mi riferisco cioè a un dialogo mancato sostanzialmente tra due autori, Ernesto De Martino e Franco Basaglia, che più o meno negli stessi anni riflettevano criticamente sulla psichiatria, l'uno dal di dentro, l'altro dall'esterno, in un favorito dalla sua grande capacità di studio transculturale, qual è Ernesto De Martino. Ora, a fronte di questa grande interesse che la questione di Basaglia, diciamo, pone agli antropologi, alla mia lettura, è per questo che esprimevo gratitudine, no? Perché questo libro si presenta non soltanto come un atto politico importante Perché devo dire che io mi sono sentito offeso quando ho letto sul giornale, è stato 4 anni fa, 3, 4 anni fa, questa espressione di Guzzanti, basagliati, profondamente offeso. E però ecco, diciamo, presi nella nostra, diciamo così, quotidianità, non è che abbiamo fatto molto per reagire. Ecco, questo libro, quando l'ho letto, cioè, quando ho letto la mail con cui lo studente mi chiedeva, scusa, mi sono dimenticato il tuo nome, Giacomo mi chiedeva di partecipare, io non conoscevo Giacomo, quindi ho letto questa mail, non conoscevo neanche il libro, e ho letto solo il titolo così in quella frazione di secondo, ho detto no, io non lo presento questo libro, perché pensavo appunto che fosse un libro che recuperasse il titolo di Basagliati nella chiave guzzantiana. Ho detto, questi hanno il coraggio di proporre la presentazione di un libro su questa espressione, invece però ho capito subito, guardando i nomi degli autori e poi anche il sottotitolo, eccetera, che era il recupero di il capovolgimento, no? Di uno stereotipo e quindi il tentativo di rivendicare anche l'idea di Basagliati, perché questo Basagliati credo voglia dire che la spinta propulsiva dell'azione basagliana, di questa azione che vive ancora al di là della discussione politica, vive nelle pratiche psichiatriche, di questo credo che Massimiliano Minelli ci potrà parlare molto, e diciamo, questa dimensione di Basagliati significa che la sua azione, la sua capacità di laboratorio democratico, di laboratorio di ricerca del superamento delle disuguaglianze e quindi di laboratorio sperimentale concreto di attivazione degli articoli della Costituzione, almeno l'articolo 3 e l'articolo 32, no? Quello sull'uguaglianza, che è un articolo dinamico, no? Che ci impone di rimuovere gli ostacoli, e quello sulla salute come diritto e come bene collettivo, sia almeno su questi due articoli i Basagliati nelle loro pratiche quotidiane continuano a sperimentare questo tipo di realizzazione della democrazia. Inoltre il libro è utile perché, sì, chiudo, il libro è utile e mi è molto utile perché costituisce veramente un laboratorio di voci numerosissime. Sono 38 interventi provenienti da diverse esperienze amministrative, scientifiche, cooperative, e presentano dei casi che ciascuno meritevole di una monografia. Ciascuna delle voci che viene a darci il suo intervento è meritevole di una monografia. Io credo che la proliferazione di monografie di questo tipo non è solo operazione accademica, è fondamentale attingere questo sapere che si è liberato da quelle pratiche che hanno sprigionato queste forme di liberazione. È fondamentale recuperarlo anche nei libri e leggerlo in questi libri, perché altrimenti questo sapere rischia di rimanere collocato in una dimensione dell'ombra, che invece questo libro ha contribuito almeno come un censimento quasi, no? A rischiarare. Grazie. Ringrazio il professor Pizza e chiedo scusa per questo triste ruolo di cronometrista, ma purtroppo i tempi sono quello che sono. Volevo ricordare a tutti quanti che gli interventi sono liberi e non c'è bisogno di aspettare il fine della conferenza, quindi se c'è qualche intervento, dubbio, qualsiasi cosa, altrimenti andiamo avanti. Se volete fare degli interventi, dicevo che non c'è bisogno di aspettare la fine della conferenza, si possono fare benissimo adesso o tra un intervento e l'altro, logicamente. Altrimenti continuiamo con la conferenza e lascerei la parola al professor Catanelli, al dottor Catanelli, che ci parlerà della situazione sanitaria attuale, quindi di come siamo riusciti a superare l'istituzione manicomiale. Io non sono in grado di parlarvi del passato, nel senso perché non sono uno psichiatra, non ho partecipato direttamente a quelle lotte, anche se sono stato uno spettatore di quel periodo da studente di medicina, perché bene o male partecipavo alle assemblee e agli incontri pubblici che ne ho fatti, molto numerosi sul problema della psichiatria. Per cui il mio compito è parlarvi di oggi, nel senso che io ho una responsabilità di regione che mi obbliga ad interessarmi di psichiatria, anche se, ripeto, non faccio lo psichiatra. E io a questo compito vi pongo subito due problemi di attualità su cui vi chiedo poi di riflettere, perché per noi sono fonte di riflessione, di impegno, ma anche di grande difficoltà. Il primo esempio riguarda i manicomi giudiziari. Nonostante la legge 180, ancora oggi esistono in Italia i manicomi giudiziari, cioè i manicomi criminali, come volete chiamare. Però c'è un'operazione in questo momento partita da qualche anno fa del loro superamento e della loro chiusura. Questo significa che nel chiudere i manicomi criminali significa che le persone che sono ricoverate lì dentro devono ritornare nelle proprie terre d'origine, nelle proprie residenze originarie. Per cui molte realtà non hanno manicomi giudiziari, per cui molte di queste persone sono ricoverate, per esempio gli umbri sono ricoverati a Montelupo Fiorentino. Allora, a Montelupo Fiorentino ci sono 11 persone che devono ritornare in Umbria. Allora, di queste 11 persone, per capirci, i manicomi criminali sono luoghi che mettono insieme il manicomio e il carcere. Cercate di fare l'accoppiata, avete subito la sensazione di quello che possono essere. Cioè, hanno tutti gli elementi tipici del manicomio e tutti gli elementi tipici del carcere. Quindi mi sembra un cocktail forte, insomma, pesante. Vengono rinchiusi lì dentro, omicidi, promicidi, giudicati infermamente. Le persone che non sono infermamente, anche se hanno fatto omicidi anche efferati, stanno nel carcere normale. Facevo l'esempio l'altra volta che Chiatti non è a Montelupo Fiorentino, Chiatti sta in un carcere normale, per cui non è una delle 11 persone che devono tornare, per dire Chiatti è il cosiddetto mostro di Foligno, non so se ve lo ricordo. Allora, il problema qual è? Noi abbiamo 11 umbri che devono tornare, di questi 9 per essere avviati a percorsi assistenziali di cui si fanno carico i servizi psichiatri regionali. Di queste persone, di 9 di queste persone si sta riuscendo, sono state esaminate, vengono valutati dai servizi, si stanno ipotizzando, si stanno concretizzando esperienze significative di ritorno, di riaccoglienza e di gestione, riprese a carico. Per 2 di questi ci sono grossi problemi. Cioè le loro caratteristiche, le loro personalità sono tali per cui non si è in grado attraverso gli strumenti ordinari che sono esistono, che dalla residenzialità di un certo tipo, dai percorsi di trattamenti, ci sono problemi perché persone di questo tipo bisogna garantire il contenimento, nel senso bisogna fare in modo che non scappino, che non evadano da qualche parte e si aggirino, insomma, non essere sistematicamente tenuti sotto controllo. Un controllo che per alcuni di loro è possibile e efficace, per 2 di questi che facciamo? Nel senso, questo è un problema che vi pongo, non pongo a voi perché non è che lo risolviamo. Però in tempi passati, ai tempi certo, questi problemi venivano discussi in assemblea, nel senso che un problema di questo tipo veniva affrontato con la comunità di appartenenza di quella persona e si discuteva di modo e la maniera di raccoglierlo. Insomma, sono leggendari il fatto che molti malati di mente rinchiusi al manicomio di Perugia, quando tornavano nel loro paese d'origine, il prete suonava la campana per accoglierli. Nel senso c'era dietro una festa, perché c'era tutto un dibattito, un percorso, un confronto con la comunità da cui provenivano per valutare le possibilità e le opportunità che queste persone avevano di tornare a casa. Ora, provate a immaginare una cosa del genere in un paese dell'Umbria, non so quale, con queste due persone che sono pluriomicidi gravi, che non sono, per dire, non appartengono alla tipologia del criminale, diciamo, da letteratura. Allora, parlate delle caratteristiche. Allora, che cosa si sta ipotizzando? Alcune realtà regionali stanno ipotizzando di ricostruire delle strutture con queste caratteristiche per accogliere le persone con queste caratteristiche, diciamo, cliniche. Per cui, per esempio, una regione, l'Emilia Romagna, sta riproponendo per accogliere anche i nostri 2. Voi capite che allora la possibilità che si ricrei e si riproponga il manicomio tradizionale sta esattamente dove. Nel senso, non pensate che il fatto che noi abbiamo una legge, le battaglie fatte, questo ci garantisca. Perché, per esempio, l'Emilia Romagna sta riproponendo una struttura per i propri, ma in un contesto, in un ambito territoriale più ampio, dal nord-est, guardate anche al nord-est, e ripropone che cosa se non ne fatti un picco meno. La Toscana rifiuta questo modello, per esempio, e lo vuole fare, se lo vuole fare lo accetta solo per i suoi. E ci sta dicendo a voi umbri, riprendetevi i vostri 2, o gli 8, gli 11, quanti siete, sappiate che noi non vogliamo farsene carico. Voi capite, siamo di fronte a una problematica di una complessità tale perché dietro l'angolo la società del manicomio tradizionale, vedete, compare immediatamente perché sono più semplici. Che è una struttura, sbarriamo le finestre, ci mettiamo 4 infermieri con le spalle larghe così, un carceriere dietro, qualcuno che controlla, è fatta. Una delle ipotesi, per esempio, lo dico perché è oggetto del dibattito e del confronto, è di fare nel carcere di Capanne, che è sede di un centro clinico mai aperto, una struttura di sorveglianza psichiatrica, perché lì avremmo tutte le caratteristiche, perché ci sono i carcerieri intorno al recinto e lì la tutela, la custodia. Voi capite però, culturalmente, per gente come me o come noi, che è dentro la cultura antipsichiatrica, diciamo, prodotta dalla legge 180 e quant'altro, quanto è difficile, come accettare il suo vergine. Però d'altronde voi capite, è altrettanto complesso. Se non c'è una comunità politica di accoglienza che si fa carico del rientro, non è che può essere affidato solo al servizio, a un medico, a due infermieri, a un assistente sociale, e adesso un affare tuo. Perché il ritorno di queste persone è fattibile e ammissibile solo nella misura in cui c'è una comunità intera che l'accoglie. Un paese, un quartiere, chiamatelo una città. Perché questo è avvenuto quando sono usciti i cosiddetti malati di mente dal manicomio. Io li vedevamo tutti per strada, ci parlavamo. Vi posso raccontare un'aneddotica incredibile con tutte queste persone. Io frequentavo il Turreno, tre di questi frequentavano il Turreno e stavano con noi, chiacchieravano con noi, facevano addirittura le manifestazioni con noi, pensate un po', nel senso erano totalmente assorbiti dalla vita comune. Nessuno si scandalizzava se vicino al tavolino c'era uno che diceva certe cose o faceva certe affermazioni, perché il fatto che erano usciti si portavano dietro tutto, anche la loro sofferenza, non è che, e per cui, però tutto questo era perfettamente compatibile, nessuno si scandalizzava di questo. Oggi questo problema non è proponibile in quei termini, lo dico molto apertamente. Noi ci troviamo con le armi spuntate della tecnica, perché abbiamo di fronte una situazione della politica che non c'è più. Questo per dirvi l'oggi che tipo di problema pone su un aspetto così specifico. Sto parlando per ora di due persone. Secondo esempio, la faccenda del cosiddetto repartino o SPDC, servizio psichiatrico di diagnosi e cura. Io mi permetto di dirvi che la famosa legge di cui parliamo, la legge 80, ha questo titolo: accertamenti e trattamenti sanitari volontari obbligatori. Questo è il titolo della legge 180. Fu presentata dal governo di Giulio Andreotti, relazionato in aula da onorevole Bruno Orsini, democristiano, e fu votato dal Parlamento dai democristiani, comunisti, socialisti, socialdemocratici, repubblicani e liberali. Però il tema, il vero oggetto della legge 180, era il trattamento sanitario obbligatorio concepito come misura di tutela del malato di mente. Pensate come è stato il trattamento sanitario obbligatorio, fu concepito dalla legge allora Basaglia come un trattamento di tutela, perché si prevedeva tutto un percorso perché una persona che aveva una crisi delirante, una crisi acuta, grave, non poteva essere afferrato e scagliato e buttato dentro una stanza chiusa a chiave e la chiave buttata lì, ma doveva seguire tutto un percorso di accertamento e anche di salvaguardia dei suoi diritti dallo psichiatra, da altri psichiatri, dal medico, fino al sindaco, perché il suo provvedimento poteva avere effetto effettivo solo se firmato dal sindaco, con un'altra fila burocratica che però era di grande garanzia. Se voi adesso questa impostazione l'andate a vedere nella realtà, e andate a vedere quello che sono oggi le SPDC, dove sono, come sono, eccetera, sarebbe veramente da allibire. Nel senso, abbiamo, nonostante ci sia il disperato tentativo di mantenere intatta una certa cultura, siamo alla riproposizione sic et simpliciter della logica manicomiale. Nel senso che il vagabondo, l'imbriacone, colui, il cosiddetto emarginato diverso, che una notte viene trovato perché magari c'è una crisi. Io ho sentito l'altra volta la direttrice della Caritas in un'assemblea pubblica che rappresentava il fatto di una nigeriana, mi pare, che aveva avuto un lutto, era morto da qualcuno, per cui nella sua cultura il lutto si manifesta con affetti di disperazione molto, fino a strapparsi i capelli, che vuol dire non strapparsi i capelli, ma tutte le treccine che, sapete, c'è tutta questa... Una persona così è stata presa, beccata, rinchiusa immediatamente col TSO. Nel senso, perché appariva come un elemento di scandalo, intrattabile, eccetera. Voi capite, una persona poi che sicuramente aveva bevuto, insomma, aveva una reazione alla sofferenza profonda in un certo tipo. In questo momento tutte le cautele, le tutele previste, eccetera, sono tutte saltate. Oggi il repartino può essere considerato la fattoria sociale di ogni città. Cioè, quando c'è un... Ve lo dico io, perché questo rientra anche... Lo dico con molta... Non ve lo dico con tanta tranquillità, perché rientra anche nelle mie competenze una cosa del genere. Cioè noi in questo momento non siamo nelle condizioni di trovare una collocazione adeguata del reparto che sta a Villa Massaria, Perugia, in un reparto ospedaliero, perché ripeto, quando voi avete sicuramente sentito casi di morte dentro i reparti. Dentro i reparti è morto anche recentemente qualcuno, ma per un motivo fondamentale, per due motivi anzi. Uno, perché ancora noi non leghiamo la gente e non gli facciamo il coma farmacologico. Voi capite, in altri casi una situazione gravissima come questa viene affrontata in due modi: la persona viene contenuta, viene legata come nel vecchio manicomio, oppure viene contenuta con coma farmacologico, cioè una botta di farmaci che veramente lo rintontisce. Questo non viene fatto perché ancora siamo eredi di una cultura che nega questo tipo di trattamento. Però voi capite, questa persona è libera da andare dove vuole, fino a buttarsi dalla finestra. Io mi ricordo Manuali quando diceva: di ogni suicidio che avviene rimanentemente noi ci mettiamo la firma, perché noi l'abbiamo fatto uscire, abbiamo permesso che non fosse più contenuto, abbiamo autorizzato che questa persona non fosse più tra le sbarre, ma la possibilità che una persona si uccida è molto alta e ricade totalmente nella solidità morale anche professionale dell'operatore. Questo per dirvi come il problema del reparto, del cosiddetto repartino, l'SPDC, è un problema di altissima attualità, perché sta riproponendo tutte le logiche che abbiamo cercato disperatamente di contenere. Nonostante, per dire, quando uno muore succede, l'ira di Dio, giustamente, perché la morte è un fatto sempre tragico e inaccettabile, però anche la seconda conseguenza è che la morte di questa gente avviene in una struttura che è il reparto di Villa Massari, lontana anni luce da ogni autoambulanza, da ogni reparto di animazione, da ogni reparto che potrebbe dargli, se collocato vicino, dare quegli aiuti, quell'intervento tempestivo che salva la vita. E ancora sta e ancora non riusciamo a mettere insieme le volontà dei direttori generali dell'ASL, dell'azienda ospedaliera, per finalmente dedicare spazi legittimi al cosiddetto repartino dentro l'ospedale del Silvestrini. E questa non è una situazione tanto diversa da altre realtà umbre. Io ho fatto questi due esempi, non perché, uno perché sono esempi che onestamente, professionalmente sono molto pesanti, e molto, ma per dirvi come tutto quello che abbiamo conquistato allora con la famosa, mai considerarlo come conquiste irreversibili. Ma subito dietro l'angolo c'è poi colui che in qualche modo la mette in discussione. E oggi è sistematicamente sotto attacco. Ecco, non è un caso. Io stamattina ho sentito l'avvocato del, non so come si chiama, quello che ha dato la statuetta, che ha detto: questa persona va fatta uscire dal carcere e va messa in ospedale psichiatrico. Ma gli ospedali psichiatrici in Italia non ci sono più. Non ci sono più. Voi ve lo immaginate se adesso questo venisse liberato e mandato in un centro semiresidenziale con i servizi? Ma ve lo immaginate che succederebbe? Oggi si vuole per quella persona, come giusta e legittima punizione, essere rinchiuso dentro il suo psichiatrico. Perché questo ormai è la cultura e il clima che si respira in Italia. Rispetto a quella che era la cultura degli anni 70, va detto non a caso, coloro che hanno votato la legge, perché uno potrebbe dire: ma no, che razza di ammucchiata, ci sono tutti lì dentro. Ma guardate bene che non era una ammucchiata, c'erano principi condivisi veramente da tutto quell'arco politico. Come è avvenuto a Perugia, perché voi pensate che la chiusura del manicomio non è stata possibile a Perugia, in provincia, se non votavano anche i democristiani e i socialdemocratici la chiusura del manicomio al Consiglio Provinciale? Questa è stata una cultura che veniva condivisa, largamente diffusa, che oggi sembra addirittura inimmaginabile. Immaginate Andreotti che propone, tipo come Andreotti che propone, la proposta lui, il suo governo, questa legge. Questo per dirvi come noi oggi dobbiamo fare i conti con una realtà che sta tentando non tanto di riproporre, ma peggio del passato. Perché voi sapete che le cose, quando ritornano, sono incubi proprio, quando le cose del passato ritornano sotto forma di incubi. E noi abbiamo quindi la necessità, se non riparte una riflessione, un dibattito, io mi fa molto piacere che stasera, con questo freddo maledetto, si riesca a discutere queste cose in un'aula universitaria, e credo che sia, perché se noi non ricominciamo a riproporre quello che è stata la vera linfa di quella stagione delle riforme, cioè il confronto e il dibattito aperto pubblico sulle cose di questo tipo, noi non riusciamo poi a reggere l'impatto di questa controffensiva reazionaria, di questo egoismo meschino che sta ormai dominando, egemonizzando praticamente ogni testa e ogni coscienza. se non riapriamo un ragionamento su come la questione, poi la questione del cosiddetto malato di mente o soffrente di mente, è una questione che poi, guardate bene, adesso riguarda lui, poi riguarda i negri, poi riguarda gli ebrei, poi riguarda i diversi, e riparte un meccanismo che è stato conosciuto in Italia e da cui non è che noi siamo immuni, riparte quel meccanismo di esclusione, di emarginazione e di ghettizzazione che ha caratterizzato per non tanto lontano. Allora, per dirvi, oggi se noi non abbiamo, se oggi noi, per dirla, per farla alla fine, se non riproponiamo delle comunità politiche, cioè delle comunità che si riappropriano della politica e che fanno della società politica, della vita politica l'elemento fondante, noi non solo non ritorneremo, non chiuderemo definitivamente i manicomi giudiziari, eccetera, eccetera, ma non saremo in grado poi di tenere in piedi questo processo aberrante di esclusione e immaginazione che sta riprendendo forza. E che prima o poi, se non si ferma, ritroverà i propri manicomi, le proprie carceri, i propri luoghi di esclusione, i propri ghetti. E quindi noi ci ritroveremo, diciamo, di fatto, riproiettati in un futuro che è addirittura peggio del passato. Grazie, dottor Catanelli. E il riferimento all'ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino, mi viene in mente la storia che io sono personalmente venuto a conoscenza dal documentario Dentro le proprie mura di Nello Gentili, che era stato ricoverato in questo ospedale psichiatrico di Montelupo Fiorentino e che per evitare appunto il secondo ricovero si arrampicò su un palo a Pone San Giovanni, su un palo dove portava la corrente elettrica. Ha bloccato 4 ore tipo la linea ferroviaria da Foligno, quindi bloccando mezzo Italia. Una soluzione potrebbe essere anche questa. Scherzi a parte, io rinnovo l'invito a fare interventi dal pubblico. E se non ci sono, lascerei la parola al professor Massimiliano Minelli, che ci parlerà dello stato della psichiatria attuale o qualcosa forse del genere. No. Via. Posso lasciare? Prego. Posso metterlo qua? Come no? No, in effetti ho qualche difficoltà adesso. Si sente? Si sente? Devo mettere. Dicevo, qualche difficoltà in effetti a parlare della situazione attuale dopo gli interventi, diciamo, che hanno preceduto. Poi in effetti io pensavo che avremmo parlato soprattutto del libro, quindi magari due parole mi sembrava opportuno dirle. Innanzitutto volevo ringraziare per questa iniziativa, perché mi sembra estremamente importante discutere di salute mentale oggi qui all'università, quindi questo è il primo punto. È un'opportunità, credo, che appunto sentivo prima Giacomo che diceva sembrava quasi una scelta da giustificare sul piano teorico, invece secondo me è fondamentale non solo sul piano teorico ma proprio anche sul piano della pratica concreta. Certo, abbiamo toccato alcuni temi che adesso per così dire mi mettono un po' in difficoltà, perché io ero venuto per discutere forse i temi che ora ha lanciato Catanelli, no? Ha messo sul tavolo, andrebbero affrontati subito. Comunque magari vediamo, no, di arrivarci con un po' di calma. La legge 180 ha una storia specifica. È il risultato di lotte molto allargate, no, nella società italiana, in un periodo storico piuttosto lungo, che nel 1978, in una serie, diciamo, anche di situazioni contraddittorie, poi trova, potremmo dire, uno sbocco in alcuni leggi, passaggi legislativi che sono fondamentali, sono delle conquiste con cui ancora oggi, no, dobbiamo confrontarci. Cioè la 180 confluirà nella 833, e come diceva precedentemente Catanelli, di fatto cerca di operare un intervento normativo sul trattamento sanitario obbligatorio. Questo aspetto è fondamentale, è strategico. Si capisce che toccando uno degli elementi centrali, potremmo dire uno dei due mandati della psichiatria, si può effettivamente cambiare radicalmente, potremmo dire, il campo della salute mentale. Questi due elementi, potremmo dire questi due mandati, non sono scomparsi con l'ospedale psichiatrico. Mi riferisco da un lato a una sorta di mandato terapeutico, c'è la possibilità di intervenire sulla salute mentale, ci sono dei saperi, no? Delle pratiche che consentono in questo senso, no? Di intervenire su una certa forma di disturbo. C'è poi l'altro mandato che comunque storicamente ha sempre accompagnato la psichiatria, che è un mandato di controllo sociale. Quindi anche gli stessi elementi che ora richiamava Catanelli, secondo me, non sono affatto, potremmo dire, solo un problema di riproporre l'ospedale psichiatrico, sono sostanzialmente il modo di affrontare la psichiatria contemporanea, che queste contraddizioni di fatto continua a portare con sé, semplicemente perché tocca alcuni, potremmo dire, aspetti centrali di una contraddizione e, se vogliamo, di uno stato di eccezione come quello di cui parlavi prima Gianni Pizza, che poi in effetti mette in discussione molti degli assetti, no, di una società. Quindi dicevo, per cambiare, potremmo dire, questo tipo di situazione, è vero, il passaggio normativo è stato per certi versi strategico, ma ci è voluto un lavoro lunghissimo, direi, di pratiche concrete di trasformazione della società. Quindi molto, diciamo, del confronto è iniziato a partire per esempio dall'apertura di alcuni reparti dell'ospedale psichiatrico, che in Umbria è cominciata dalla metà degli anni 60. Quindi va tenuto conto che si è cominciato a discutere all'interno dell'ospedale psichiatrico, prima per riformare probabilmente l'ospedale psichiatrico con un approccio, diciamo, riformista, poi progressivamente per distruggere, eliminare l'ospedale psichiatrico. Quindi, per esempio, l'Umbria è particolarmente importante, questo va detto nel libro, è continuamente richiamato, è particolarmente importante perché l'Umbria è una regione che nel momento, diciamo il 13 maggio 1978, ha attivato già da almeno, diciamo, 8 anni, perché ha cominciato a costruire una rete nel 1970, quindi ha attivato una rete di servizi psichiatrici territoriali da parecchi anni e ha approvato un regolamento, secondo me, molto avanzato, no? Dei centri di igiene mentale nel 1974. Quindi si capisce che è evidentemente qualcosa che è stato possibile fare perché c'è stato un ampio confronto, direi, politico e sociale, e in un certo senso si è avuto un approccio, potrei dire, costituente rispetto alla comunità politica, no? Che adesso è stata richiamata. Si capiva che si stava cambiando complessivamente, no? Alcuni elementi centrali, no? Della società, in particolare si toccava un tema cruciale, che è quello per esempio che sta dentro l'833, cioè il diritto alla salute, no? Quindi nel sistema sanitario universalista, cioè che tutela il diritto alla salute di tutti i cittadini. Questo significa che quindi molto del lavoro concreto, microscopico, che ha a che fare con quelle pratiche di trasformazione della vita quotidiana, credo di cui parlava prima Gianni Pizza, è stato, potremmo dire, costruito dagli operatori insieme ai pazienti, anche in situazioni assembleari, quindi soprattutto con il confronto politico, per un lungo, potremmo dire, periodo di tempo che ha coinvolto ospedale psichiatrico, ma direi la cittadinanza. Prima è stato richiamato il video dentro le proprie mura. Dentro a quel video confluisce moltissimo materiale di Fortezze Vuote, che è un film realizzato nel 1974 da Serra proprio su questo tipo di situazione, che a Perugia vedeva effettivamente un confronto sociale ancora molto allargato. Oggi effettivamente sembra quasi, cioè, è difficile quasi, no? Ricordarlo, ma in effetti è probabilmente qualcosa che va tenuto presente. Un altro aspetto centrale, si capisce, e qui sempre nel libro appunto curato da Paolo Lupattelli è chiaro, cioè è stato necessario in molte circostanze aprire un dialogo politico, diciamo tecnico e politico rispetto, diciamo, alla presenza degli amministratori locali. Gli amministratori locali, in quel caso una giunta provinciale, la giunta Rasimelli, ha dato sicuramente il contributo principale quando si è trattato di decidere di cosa fare dell'ospedale psichiatrico. Qui ci sono episodi in cui si capisce che appunto Rasimelli è andato di notte a visitare l'ospedale psichiatrico, racconta nel suo contributo per in un certo senso andare a vedere di persona, lui che era presidente della provincia neoeletto, per andare a vedere di persona che cosa succedeva dentro all'ospedale. Questo forse oggi non accadrebbe, rispetto a quello che si diceva, no, del rapporto tra salute mentale e politica e amministratori locali. Questo brevemente come premessa, semplicemente perché so che c'è una storia che va recuperata e forse c'è chi meglio di me potrà parlarne. Per quanto mi riguarda, io ho cercato di accostarmi a questo campo, che è il campo della salute mentale, con una curiosità di, diciamo, di uno che vuole fare ricerca. Io quindi sono di formazione antropologo, mi occupo di antropologia medica, ho pensato di andare a fare ricerca etnografica, cioè etnografia significa stare in un posto, stare a contatto con le persone, vedere che cosa accade, no, nella vita quotidiana, e capire, cercare di capire che cosa in un certo senso si fa in un dato, in una data situazione. Nel caso della salute mentale io ho provato a fare questo e devo dire che rispetto a quello che è stato detto fino ad ora, forse vorrei portare degli elementi di, come dire, cauto ottimismo, perché ci sono situazioni in Italia estremamente avanzate, cioè bisogna, secondo me non bisogna dimenticare che noi qui stiamo discutendo di un fenomeno unico che almeno quando si va all'estero viene costantemente richiamato, cioè che l'Italia effettivamente è l'unico paese anche in Europa che ha sostanzialmente eliminato l'ospedale psichiatrico e quindi necessariamente ha costruito una possibilità alternativa di cura e presa in carico dei problemi di salute mentale. Allora, in questo senso è chiaro, la situazione italiana vede una applicazione piuttosto differenziata, si parla, no, di macchia di leopardo della legge 180, ma in particolare, posso dire, anche in Umbria ci sono situazioni estremamente avanzate. E personalmente ho trovato soprattutto una pluralità di soggetti, una grande capacità anche di riflettere su quelle che sono le proprie pratiche quotidiane, e una cosa che, di cui non ho sentito parlare fino ad ora, ma per esempio ci sono anche gruppi, per esempio di cosiddetti gruppi di auto e mutuo aiuto, di pazienti e familiari, che oggi sono probabilmente i soggetti più interessanti da, come dire, coinvolgere in un dibattito pubblico. Quindi io ho presente, diciamo, delle assemblee del forum della salute mentale in cui c'è effettivamente, come dire, la consapevolezza che si sta facendo una cosa importante, semplicemente perché l'eredità della 180 sta nella pratica quotidiana delle persone che ogni giorno nel campo della salute mentale agiscono per trasformare delle situazioni. Questo a me colpiva molto, direi un problema, no? Cioè effettivamente pensare di cambiare dei contesti per intervenire sulla salute delle persone mi è sembrato effettivamente una sfida, anche potremmo dire per uno che vorrebbe semplicemente descriverle, quindi fare un lavoro, no, di descrizione in cui emergano i significati, no, e il modo in cui le persone interpretano quello che fanno. Quindi la necessità di pensare relazioni, di cambiare la qualità delle relazioni e di cambiare i contesti. Nel testo appunto di curato da Lupattelli si trova per esempio un intervento dei partecipanti alla rete UNASAM, che è la rete italiana dei familiari, che secondo me ha delle proposte che sono poi quelle più avanzate che attualmente vengono portate avanti in Italia, che fanno capire che c'è una sperimentazione costante in trasformazioni microscopiche del vivere quotidiano. Cosa significa, per esempio, cambiare un certo modo, potremmo dire, di abitare, cioè costruire un gruppo, no, che possa vivere in una casa senza essere, potremmo dire, dentro la cornice psichiatrica o medica, e che per esempio possa sperimentare altre modalità di convivenza, a partire da difficoltà, ma sono difficoltà che potremmo naturalmente misurare a seconda delle situazioni in ogni specifica, no, persona che potremmo dire, no, dà un suo contributo alla vita comune. Quindi anche questo è importante, potremmo dire. Si tratta di superare delle difficoltà che non necessariamente sono in quanto tali psichiatrizzabili. C'è molto da fare, potremmo dire, per recuperare delle capacità di agire, che evidentemente non tutte hanno a che fare con il disturbo, la diagnosi, la terapia, in particolare quella farmacologica. Detto questo, qui naturalmente non c'è tempo, ma è chiaro che a me interesserebbe soprattutto raccontare di storie di persone che in questo momento fanno, potremmo dire, no, questo tipo di tentativi. Si, come dire, cercano ogni giorno di cambiare la situazione. Forse la prima cosa che vorrei dare come contributo è che si capisce che se uno effettivamente vuole creativamente cambiare le pratiche quotidiane, il rischio dell'istituzionalizzazione non sta soltanto dentro alle mura dell'ospedale psichiatrico. Cioè il rischio dell'istituzionalizzazione sta dentro le pratiche. Cioè noi possiamo ogni volta, potremmo dire, trovarci nella necessità di dover ripetere una cosa che ci è riuscita particolarmente bene, e nel momento in cui proviamo ad applicarla, standardizzarla, misurarla, vedere che per esempio non è in grado di interagire con un contesto che sta cambiando. Qui si capisce che dentro a queste pratiche microscopiche c'è anche una critica, direi, radicale di certe forme di aziendalizzazione che stanno evidentemente strutturando il sistema sociosanitario così come lo conosciamo oggi in Italia. Quindi una cosa che dice Basaglia, poi ci tornerò, vorrei chiudere con una citazione di Basaglia dalle conferenze brasiliane, si capisce perfettamente che la logica, potremmo dire, che consente di fare la 180 sul territorio è radicalmente anti-ospedaliera. Cioè non è anti-ospedale psichiatrico, è anti, potremmo dire, ogni logica di medicina ospedaliera che misura, potremmo dire, le prestazioni in base a un certo problema diciamo, di gestione, no, dei costi e potremmo dire quindi di, come dire, gestione della prestazione sanitaria in base a degli elementi parcellizzati e non a risposte complesse a problemi complessi. Quindi potremmo dire la situazione psichiatrica, in quanto situazione molto complicata, cioè che coinvolge, potremmo dire, un'intera forma di vita, è chiaro che mette continuamente in crisi le logiche di ripartizione, no? Di gestione, potremmo dire, dei budget in entrata e delle prestazioni in uscita. In questo senso è una sfida, nel senso che, per esempio, a me è capitato di lavorare a Gubbio, no? In un centro di salute mentale, lì si capiva che nel momento in cui l'azienda sanitaria locale stava cambiando il modo di fornire, potremmo dire, i pasti, cioè sostanzialmente anziché finanziare la cucina dell'ospedale, dava sostanzialmente dei pasti preparati in precedenza e perché erano dati effettivamente in subappalto a una ditta esterna, i primi a vedere cambiata la propria forma di vita sono stati i pazienti di un gruppo appartamento che erano abituati ad andare a prendere degli ingredienti per cucinare in casa dentro alla precedente organizzazione, diciamo, di questo tipo, no, di lavoro, e che quindi in un certo senso hanno visto che questa standardizzazione metteva in crisi una possibilità che era una possibilità minima che ciascuno di noi sperimenta ogni volta che decide cosa prepararsi da mangiare all'interno della propria casa. Capite che in un certo senso l'esempio è microscopico, è banale, ma è esattamente questo su cui molto spesso si può, potremmo dire, costruire una nuova possibilità di vita. Nel senso che nel mio lavoro io ho cercato di stare a contatto con persone per cui, per esempio, anche, che ne so, fare appunto un piatto di pasta da soli poteva essere qualcosa che stava dentro un percorso che chiameremmo riabilitativo, terapeutico. Quindi in questo senso tengo a precisare che è evidente che stiamo parlando di qualcosa che va osservato nella trasformazione della medicina così come la conosciamo oggi, ma in generale di molto di quello che è stato fatto, che viene fatto dello Stato sociale, no? In una società come quella in cui viviamo. In questo senso è chiaro che mi sembra che alcuni degli attacchi, per esempio alla 180, sono molto rudimentali, molto grezzi. Se leggiamo per esempio le proposte che c'erano già state, io ricordo quella della Burani Procaccini, no? Precedente, o di CE, che era quello, no, leghista, sempre la precedente legislatura, ci accorgiamo che è una combinazione molto rozza, potremmo dire, di una sorta, potremmo dire, di assistenzialismo, no? Per cui le persone che hanno bisogno dovrebbero trovare un posto, e naturalmente una serie di risposte molto legate al fatto di trovare delle situazioni in cui le persone possano andare, potremmo dire, a stare localizzate in un luogo, no? In cui trovino, potremmo dire, un posto letto, stare lì più tempo possibile. Chiaramente è con questo che dobbiamo fare i conti e su questo bisognerà in un certo senso, no, intervenire. Ma vorrei dire che molto però di questo tipo di elementi, anche rozzi, passano perché in larga parte le persone si sono abituate a pensare ai problemi della salute come problemi prevalentemente, diciamo, di tipo, diciamo, come problemi singoli, parcellizzati, che potrebbero trovare una risposta, ad esempio farmacologica, e in cui in un certo senso a un bisogno corrisponde generalmente una domanda, una risposta che potrebbe essere in larga parte, potremmo dire, già prefigurata in una sorta di logica di accesso al servizio, no? Beh, chiaro che in questo senso potrei dire che la 180 potrebbe già aver cominciato a perdere da anni, no? Come vi dicevo, però, dal mio punto di vista, se oggi avessimo qui persone, forse ci sono persone che lavorano nel campo della salute mentale, ci accorgeremmo che ci sono molti elementi, secondo me, su cui potremmo dire puntare, no? Per vedere che cosa succederà, perché ho l'impressione che questa è una di quelle realtà, di quelle situazioni in cui l'azione quotidiana di operatori sociali, familiari, pazienti, persone che semplici cittadini che decidono di partecipare a reti, no? di scambio nel campo della salute mentale, e naturalmente parlo degli operatori, cioè psicologi, psichiatri, infermieri. Beh, io vedo che in questo campo c'è una, secondo me, una consapevolezza, no? Che si fa ogni giorno un lavoro importante. C'è anche la consapevolezza che è un lavoro, potremmo dire, che è difficile da rappresentare. Questo, per esempio, è la cosa che mi capita di riscontrare nel campo della salute mentale. Cioè, non è un caso, credo, che l'avvocato della persona di cui parlavate prima, che parlava prima, ha parlato di ospedale psichiatrico. Cioè, è un lapsus, se vogliamo, che però è assolutamente comprensibile. Oggi, in un certo senso, sembra quasi normale poter dire se una persona ha un disturbo psichico ci vorrebbe un ospedale. Evidentemente tutto questo significa che l'idea che la 180 potremmo dire esiste proprio perché c'è una rete territoriale ramificata di servizi molto differenziati che rispondono a esigenze molto diverse, che non hanno a che fare sempre con la questione sanitaria, ma che in generale investono i problemi, diciamo, del sociale e in particolare i diritti fondamentali di cittadinanza, beh, questo evidentemente non passa. Cioè, non passa perché forse siamo un po' tutti responsabili. Certamente non noi stasera, perché non, nel senso che con questa iniziativa forse è stato fatto qualcosa di significativo. La vedo avvicinarsi, quindi adesso mi fermo. È brutto questo ruolo, sì. È brutto forte. Sì, in effetti potrei dire semplicemente questo. C'è un intervento qui di Mario Colucci e Pierangelo Di Vittorio, Pierangelo Di Vittorio è uno studioso che da anni, diciamo, ripercorre il lavoro di Basaglia e Foucault, che mi sembra estremamente interessante perché tornano sulle conferenze brasiliane e in un certo senso provano a fare questo aggancio che mi sembra significativo, no? In un incontro come questo, cioè provano a legare l'esperienza della trasformazione, che in Basaglia appunto non è mai un modello. Perché riprendono le conferenze brasiliane? Perché Basaglia è perfettamente consapevole che la situazione italiana non è esportabile. Quello che è esportabile è la possibilità di trasformare le pratiche e le persone nelle pratiche, e naturalmente in questo senso richiede potremmo dire un dialogo costante con i contesti specifici. Quindi in questo senso la psichiatria, potremmo dire, rinnovata italiana non è in sé esportabile come se fosse un modello. Quello che può fare in effetti è mostrare le contraddizioni nelle singole realtà e vedere come in queste singole realtà si potrebbe in un certo senso cambiare. Dicevo, questi due autori in effetti toccano la questione centrale che interessa Basaglia, che, visto che questi sono gli ultimi scritti, no, prima della morte, e che poi sono le cose con cui noi ci confrontiamo oggi, cioè i processi di normalizzazione che investono la società, no, nella situazione contemporanea. Pensate per esempio alla prevalente psicologizzazione e medicalizzazione dei problemi. Non è un caso, no, che molte delle questioni principali non sono lette socialmente, ma sono principalmente lette come questioni psicologiche o, potremmo dire, mediche, no? Forse perché ci si aspetta che ci sia una risposta, no, pronta, prevalentemente magari farmacologica. Volevo leggere adesso, per chiudere, se posso, due passaggi di Basaglia. Uno in cui dice, forse questo è un po' lungo, ma in cui fa capire per esempio il rapporto che c'è tra tecnica e politica nel suo lavoro. È stato, no, a lungo si è detto che il rapporto tra tecnica e politica sembra essere quasi contraddittorio. In realtà, quando uno affronta un problema ad un livello più alto dello specifico, dicevamo, è necessariamente portato a fare un intervento che chiameremmo politico. Penso che noi dobbiamo tenere in piedi contemporaneamente le due situazioni, i due ruoli, quello di tecnico e quello di militante politico. Lo fa parlando del suo lavoro quotidiano. Nel momento in cui io porto una persona a prendere coscienza delle contraddizioni in cui vive, non sto facendo un'azione tecnica, ma politica. È vero però che io esplico così anche il mio essere psichiatra e fa un esempio. In una famiglia di operai c'è un figlio handicappato e ogni mattina il padre e la madre, che devono andare a lavorare, portano il bambino un po' qua e un po' là, un giorno a casa di un amico, un giorno da un altro. Ma la solidarietà non è eterna e giorno più, giorno meno, questa famiglia sarà obbligata a internare in un istituto il figlio, il che non è la situazione ideale per un bambino handicappato. Ebbene, questa circostanza porta in sé gravi conseguenze perché produce angoscia nei genitori, crea già una situazione che chiameremmo nevrotica. Ed ecco che io come psichiatra nel mio lavoro di salute mentale vengo chiamato da questa famiglia che si sente in colpa per aver internato il bambino. Quale sarà il mio compito? Curare la nevrosi della madre o la depressione del padre? Certo, io ho gli strumenti per farlo, ma questo intervento non sarebbe che una modalità di repressione della famiglia. Il problema è che io devo spiegare al padre e alla madre perché sono stati obbligati a internare il figlio in istituto. Sono stati obbligati perché l'organizzazione sociale ha impedito loro di dare al bambino l'affetto di cui aveva bisogno. Questa è un'azione politica e tecnica allo stesso tempo e il mio compito di psichiatra è questo. Non è di dare i farmaci ai genitori, ma piuttosto di creare una presa di coscienza, un nuovo codice che consenta a queste persone di capire le cose. Ora, questa cosa che sembra sempre, diciamo, potrebbe essere vista come ideologica, in realtà se nella pratica quotidiana, per esempio, si lavora nell'inserimento lavorativo di un paziente, ci si accorge che ci si confronta costantemente con il cambiamento del mercato del lavoro oggi per tutti. Quindi le difficoltà, per esempio, che incontra il paziente sono in parte legate, diciamo, a un disagio, ma evidentemente lo psichiatra, gli operatori sociali devono avere la consapevolezza che stanno lavorando, potremmo dire, su una situazione che in larga parte forse è il punto da cui ha iniziato Giacomo, cioè una situazione di precarizzazione complessiva che riguarda molti soggetti. Forse è lo stesso operatore sociale che accompagna il paziente a fare il colloquio, no, per un posto, diciamo, per un inserimento lavorativo. Chiudo con questa cosa che dice Basaglia, che è effettivamente quello che cercavo di dire forse in modo confuso io. Cioè, una delle cose importanti della nuova legge italiana, quindi quando parla legge 180, non è tanto e non solo il problema della chiusura dei manicomi, quanto l'avere inserito la psichiatria all'interno dell'assistenza sanitaria, perché il vero manicomio non è la psichiatria ma la medicina. Ebbene, su questo nuovo manicomio dobbiamo agire. Nel momento in cui la psichiatria come fatto sociale entra nella medicina, si sviluppa un'enorme contraddizione. Da questo punto di vista che io considero molto importante quella che sarà l'evoluzione ulteriore. Non perché la medicina possa essere capace di risolvere le contraddizioni della psichiatria, ma perché tutte le contraddizioni della psichiatria entreranno anche nella medicina. Questo probabilmente è, potremmo dire, una chiave, cioè tutti questi elementi che entrano e emergono come contraddizione nella pratica quotidiana, no? Nel campo della salute mentale, evidentemente devono cambiare la pratica, potremmo dire, che noi tendiamo a leggere prevalentemente come ospedaliera. E questo naturalmente ha a che fare con i decisori, i programmatori politici, ma probabilmente con tutti noi, intesi come no cittadini, che si confrontano con questi problemi. Fermo. Bene, io chiedo ancora scusa per questo tristissimo ruolo che mi è toccato oggi, però i tempi sono quelli che sono. E a proposito di questo, siccome l'intento di oggi era anche lanciare un sassolino nello stagno, vedere anche la reazione che c'era, noi più che altro abbiamo intenzione di continuare questi argomenti, proseguirli attraverso un gruppo di studi, attraverso dei seminari autogestiti, che probabilmente, verosimilmente, partiranno l'anno nuovo, visto che i tempi sono quelli che sono adesso. Per chiunque interessato, poi Giacomo lascerà tutti i contatti necessari per partecipare e sono anche nel Deplian che abbiamo distribuito. Io ora lascio la parola al professor Covino che farà un riassunto storico-politico di più o meno quello che abbiamo detto oggi. Assolutamente no. No, ok. Abbiamo messo d'accordo così, professore. Sì, però, scusate, 7:40 è complicato. No, io invece vorrei indicare due cose, dire due cose. La prima è perché una scelta editoriale di questo genere. In parte l'ha spiegata Paolo Battelli, ma io credo che il problema sia sostanzialmente spiegabile in questa maniera. Noi abbiamo avuto in Italia dalla metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 70 un modo particolare di atteggiarsi della società, in cui di fronte a un cambiamento della società, dell'economia, delle forme di organizzazione della vita quotidiana, si mettevano in moto pratiche di liberazione o, come è scritto nel sottotitolo del libro, dei percorsi di libertà. Questi percorsi di libertà sarebbero dovuti diventare un paese possibile e non lo sono diventati. Cioè, il paese possibile è il titolo di un bel volume di storia contemporanea scritto da Vito Lorenzi. Quello che oggi viene fuori nella descrizione, nella storia che in qualche modo stanno vincendo gli attuali vincitori, speriamo che stanno scrivendo gli attuali vincitori, è descrivere queste pratiche di liberazione, questi tentativi di liberazione, come sostanzialmente percorsi criminali. Questo è il tipo di operazione che si fa. Allora, noi avevamo più scelte in questo anno passato, nel 2008. O celebrare eventualmente l'inizio e l'esplosione di queste pratiche di liberazione, cioè banalmente quello che si chiama il 68, oppure prendere un tema, far vedere come attraverso un giornale, attraverso un libro, attraverso le poche cose che riusciamo a fare, come queste esperienze di libertà fossero andate avanti e congiungendo, sconvolgendo per certi aspetti, tecniche, modi di essere, pratiche scientifiche e rimettere in campo quel rapporto che oggi sta subendo una sorta di cortocircuito tra cultura e vita quotidiana, tra pratiche di liberazione e tentativi di organizzazione diversa di una società. In altri termini, se dovessimo, cioè dietro questo c'è ovviamente un intento polemico. Oggi si discute tanto di riforme e di riformismo, queste erano riforme, questa era una pratica riformista. Oggi di questo riforma e riformismo sono tutt'altra cosa. Questo è il primo intento polemico. Il secondo intento polemico è che anche chi difende quello che è oggi la 180 o quello che ne residua, come diceva prima Marcello Catanelli, con tutte le difficoltà che è inutile nascondersi, è praticamente schiavo di una visione. La visione dell'ospedale come azienda, la salute come terreno su cui i conti devono ritornare e via di seguito. Cioè oggi l'aziendalizzazione e le pratiche mercantili riguardano anche un campo estremamente delicato come è quello della salute e più specificamente nel nostro caso della salute mentale. Ora, il motivo per cui lo abbiamo fatto proprio qui è perché, è stato ripetuto fino allo spasimo, e quindi è inutile che lo dica, è perché l'Umbria rappresenta un terreno privilegiato di questo tipo di esperienze. Terreno dove in parte si è cominciato prima, dove, come diceva prima Minelli, la rete si è costruita in maniera anticipata e via. Ora, io credo che, come sempre, le celebrazioni o i libri sono importanti se lasciano qualcosa. Se in un qualche modo alla fine del libro rimane sostanzialmente qualche vaga idea, servono relativamente a poco. È un po' come gli articoli di giornale. Gli articoli di giornale, dopo che l'hai letti, normalmente o te li dimentichi o lasciano qualche vaga suggestione. E quindi qui si tratterebbe di vedere, e qui chiudo perché non mi pare di farla il caso di farla lunga, se c'è una possibilità di rimettere in piedi una pratica come quella di cui stavamo parlando prima. Cioè, badate, una pratica di liberazione è soprattutto una pratica culturale, intesa in senso ampio, non in senso... E all'interno di un'università di queste pratiche culturali, occupati come siamo a discutere su nuovi ordinamenti che cambiano tutti i giorni, se ne fanno sempre di meno. Allora, sarebbe importante se quello che abbiamo fatto stasera non restasse solamente la presentazione di un libro, bello, brutto, che è costata fatica, che in un qualche modo può essere apprezzato, ma diventasse un tentativo di ricostruire questo circuito e questa pratica. Si è detto un seminario autogestito, perfettamente d'accordo, autogestiamolo assieme, nel senso che io sono dell'idea che queste cose dovrebbero entrare all'interno perlomeno di questi meccanismi folli che sono stati inventati, crediti, sottocrediti e così via, e qualcuno di noi può non farsi garante, ma farsi tramite per una discussione che affronti anche questo tema. È un modo anche per responsabilizzare un corpo docente costretto a fare esami, lezioni, riunioni in cui si decide della sorte degli altri e anche della propria, con scarsissimo costrutto, ve lo posso assicurare in maniera assolutamente sincera. Perché? Perché questo tipo di processo che si può mettere in moto può diventare anche quello che diceva prima Marcello Catanelli. Cioè, noi pensiamo normalmente nella nostra pratica che fatta la legge risolto il problema. Il problema nasce, anzi si sposta, nel momento in cui hai fatto la legge. E se tu la legge non la presidi come se fosse una sorta di trincea, normalmente si ritorna indietro. E allora, per presidiarla, ci sono solamente tre modi. Primo, discutere. Secondo, discutere. Terzo, discutere. Ora, se questa operazione non la si fa all'interno dell'università, dove si può fare? E se l'università non diventa un luogo in cui rientrano amministratori che hanno fatto un'esperienza, operatori sanitari, sindacalisti e via di seguito, a che serve? E se all'interno di questa esperienza non ci portiamo anche i protagonisti di questa esperienza, che non sono solamente gli operatori, i politici, ma gli stessi pazienti, chiamiamoli così, non trovo una parola migliore, gli stessi malati o gli stessi matti, a che utilità se ne tira fuori? Insomma, l'idea è quella di rimettere in piedi un circuito. Questo circuito non è che darà grandissimi successi, io vorrei che fossimo sufficientemente disincantati da questo, però può essere un granello, un passo in avanti, un possibile sassolino messo in un ingranaggio che sembra ormai distruggerci tutti, macinarci tutti, a cui sembra che non sempre riusciamo a opporci. Grazie. Allora, ora tirerei un attimo le fila. Il professor Covino è stato preveggente, nel senso quello che stavo per dire era appunto questo. Se questo fosse stata la presentazione di un libro e avremmo chiuso qui la nostra attività o il nostro percorso su questo tema, sarebbe stata una cosa oltremodo sciocca. E infatti la nostra intenzione, che ci è stata confermata anche dal dialogo con alcuni dei relatori di stasera, sarebbe proseguire questa attività che ti porta a interrogare sulla psichiatria, su cosa significa, su cosa significa la malattia, su cosa significano le istituzioni totali, su che tipo di rapporto lega il dottore e il paziente in questo tipo di situazioni. Deve essere una riflessione a lungo termine, l'università può essere riguardo ciò un luogo centrale perché abbiamo a disposizione alcuni di noi almeno più tempo, abbiamo degli spazi, abbiamo dei luoghi dove diciamo la cultura è più a portata di mano e perciò vi invito o a contattarci, lasciare un messaggio sul sito che abbiamo e che è segnato sui fogli, oppure abbiamo anche una pagina Facebook, la trovate, Bidiland Onda Peruda, o potete parlare con noi adesso se siete interessati a proseguire o avete delle proposte riguardo questo percorso. Adesso abbiamo pochissimo tempo, purtroppo se qualcuno vuole fare un intervento, al limite c'è spazio anche per un paio. D'autorità che ci potrebbe essere tra un'istituzione e un individuo, è stato detto lo Stato, il corpo. E secondo me è un'opportunità per parlare della relazione d'autorità che ci può essere all'interno di un'istituzione come l'università e con lo studente, con l'individuo studente. Per questo secondo me processi di autoformazione, seminari autogestiti o altre forme di formazione un po' diverse da quello che viviamo sono fondamentali. Per questo io propongo insomma anche una riflessione su che tipo di autoformazione vogliamo, visto che dall'anno scorso uno degli argomenti forti della protesta degli studenti è stato anche l'autoriforma dell'università attraverso per esempio l'autoformazione. E quindi assumere l'autoformazione non in maniera così idealistica o facile, facciamo autoformazione, ma mettere proprio in analisi questo termine e questa pratica dentro l'università e ritrovarci insomma proprio per capire quale può essere la strada migliore sia per noi all'università ma sia anche per estenderla ai studenti delle scuole superiori che poi saranno studenti universitari degli anni prossimi e poi a tutta la città insomma proprio per far partire quel processo democratico. Quindi secondo me è un obiettivo importante rendere anche democratica l'università e la sua prassi quotidiana. Grazie. C'è qualcun altro? Qui ci sono dei libri, se qualcuno è interessato può rivolgersi a noi per acquistarli e appunto vi rinnovo l'invito a essere presenti e soprattutto a partecipare in prima persona alle future attività se vorrete, perché così renderemo l'università un luogo sicuramente più democratico e più simile a noi rispetto a come adesso. Grazie ancora e chiudiamo qui.